Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'Italia si astiene nel voto sul bilancio europeo. È la prima volta che avviene. Renzi dice: siamo pronti al veto, ma non per egoismo. Il premier interviene anche sul referendum. Se vince il no, nessun governo tecnico di scopo, non sono abbarbicato alla poltrona. Primo discorso di Hillary dopo la sconfitta: ho pensato di non uscire più di casa. Il voto ha creato forti divisioni nel paese più grande del mondo, dice. In Campania la speranza di vita alla nascita è inferiore di 4 anni rispetto a quella di Trentino e Marche, colpa del federalismo sanitario, secondo l'Osservatorio Salute. La fuga e l'inseguimento con 10 pattuglie tra il Veneto e il Friuli, arrestati in 3, sospettati di essere ladri seriali, denunciati, sono già liberi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Il 349-238-6666 è il numero per intervenire via SMS o via WhatsApp. Effetto Giorno @radio24.it invece è l'email se ci volete scrivere. In apertura dunque torniamo a parlare del bilancio europeo. Nel prossimo bilancio europeo siamo pronti a ogni tipo di intervento, fino al veto, così Matteo Renzi nel corso della firma del patto per Cagliari in Sardegna. La posizione dell'Italia è stata espressa anche oggi, quando il nostro paese si è astenuto, ed è la prima volta, riguardo alla decisione sul bilancio comunitario annuale. Il Consiglio europeo e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sul bilancio 2017, con impegni totali a 157,88 miliardi. Le proposte dell'Italia sono state recepite, indicano le fonti. Ciò però non è stato ritenuto sufficiente per votare in favore. Una linea in coerenza con la riserva posta nei giorni scorsi sulla revisione di medio periodo del quadro finanziario 2017-2020, che preannuncia appunto un veto italiano sulla programmazione economica comunitaria di lungo periodo. Le principali voci del bilancio oggetto dell'accordo di oggi riguardano le iniziative per la crescita e la creazione di posti di lavoro per 21 miliardi, in aumento del 12% rispetto al 2016, e poi un impegno di quasi 6 miliardi per migrazione e sicurezza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il lato del bilancio europeo. Per quanto riguarda il bilancio italiano, la manovra procede nel suo percorso parlamentare all'indomani delle osservazioni di Bruxelles. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Osservazioni della Commissione europea che vengono commentate oggi dal Presidente del Consiglio Renzi. Il rinvio a marzo della manovra è una consuetudine, ha detto il Premier, è avvenuto nel 2014 e nel 2015 e soprattutto quello italiano è un buon bilancio, ha aggiunto Renzi, permette di coniugare la riduzione del deficit, che è il più basso degli ultimi 10 anni, e l'aver anche liberato risorse importanti sulla sanità e sul milione di italiani che vivono nell'area del cratere del terremoto. Quanto al percorso parlamentare della manovra, slitta le votazioni in Commissione Bilancio alla Camera sugli emendamenti al testo. Inizieranno infatti domenica prossima. L'obiettivo, ha spiegato il Presidente della Commissione Boccia, è di dare il primo via libera al disegno di legge di bilancio tra mercoledì sera e giovedì mattina. Ad aver ricevuto intanto il sì di Montecitorio e il decreto fiscale collegato alla manovra che passa ora al Senato, rottamazione delle cartelle, maglie della voluntary più elastiche, stop al tax day, rinnovo automatico della cedolare secca, queste alcune delle misure principali del testo, con il quale si ufficializza anche l'addio ad Equitalia. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Intanto medici, sanitari e veterinari della sanità pubblica scioperano il 28 novembre per sollecitare risorse certe proprio nella legge di bilancio per il rinnovo dei contratti e assunzioni del personale. Teresa Trillò ha sentito Massimo Cozza, che è il segretario nazionale della funzione pubblica CGIL Medici. Perché i medici della sanità pubblica scioperano il 28 novembre? Scioperano per il contratto, quindi per avere risorse adeguate all'interno della legge di bilancio. Scioperano per dare risposte alle migliaia di precari, di medici e infermieri che oggi lavorano in sanità, e per poter assumere le persone necessarie dopo anni di tagli. Quante sono le risorse di cui avete bisogno? Noi non abbiamo una cifra precisa, sicuramente, e la cifra che c'è all'interno della legge di bilancio è largamente insufficiente, perché parliamo di 1,9 miliardi per tutto il pubblico impiego, che serve a tante altre voci annunciate dal governo, e quindi forze di polizia, forze armate, scuola, per cui alla fine le risorse residuali sono insufficienti, e le risorse per il contratto dei medici e per la sanità sono rapportate alle risorse del pubblico impiego. Veniamo al fronte più puramente politico tra le vicende del referendum e quelle del centrodestra. A poco più di due settimane dal voto sul referendum costituzionale, Matteo Renzi oggi mette in chiaro di non essere disponibile a fare governi tecnici o di scopo in caso di una vittoria del no. Il governo tecnico lo abbiamo avuto più volte e sono salite le tasse. Gli italiani non si facciano fregare dai politici, dice il Premier. Comunque vada, l'Italicum sarà cambiato. Aggiunge poi Renzi, che oggi è in Sardegna per il suo tour a sostegno del sì. Dal fronte del no stamattina ad andare all'attacco è invece Matteo Salvini. Renzi resterà leader ancora per 15 giorni, con la speranza che nessuno gli faccia da stampella, dice il numero uno della Lega. Se qualcuno del cosiddetto centrodestra, Berlusconi compreso, gli volesse fare da stampella, noi tiriamo dritti come treni. Sono contento perché più la gente si informa, più sale il no. E poi soprattutto dal 5 si torna a occuparsi di cose serie, tasse, lavoro, sicurezza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alle cronache del terremoto. Prosciutto adotta prosciutto. San Daniele tende una mano a Norcia. Oltre 60.000 cosce e il salume umbro potranno partire verso il Friuli per essere stagionate nei saloni del consorzio del prosciutto di San Daniele, conservando comunque il marchio di indicazione geografica protetta di Norcia, appunto. Il direttore del consorzio, Emilio Cicchetti, al microfono di Alessandra Schepisi. Abbiamo saputo che i colleghi di Norcia, alcuni di essi hanno avuto gravi lesioni ai prosciuttifici che trasformano il prosciutto di Norcia IGP. È stato fatto un provvedimento da parte del governo nel pacchetto di emergenza terremoto dell'Umbria, che ha autorizzato con un provvedimento d'urgenza il trasferimento di questi prosciutti al di fuori dell'area tipica, perché qui, come si può capire, c'è un problema di tenuta del sistema legale per quanto riguarda l'origine del prodotto, quindi ci vuole una deroga apposita per stato di emergenza, e noi abbiamo fatto quindi un censimento con i nostri produttori, abbiamo trovato la disponibilità ad ospitare circa 70.000 prosciutti qualora ve ne fosse necessità. Si stanno coordinando in Umbria tramite la regione e i produttori, e appena capiremo quali sono le esigenze saremo pronti ad ospitarli quanto prima. Quindi il prosciutto di Norcia verrà stagionato a San Daniele, sempre col sistema di rintracciabilità e controllo previsti dalla normativa comunitaria. Ci sarà l'istituto di controllo di San Daniele che subentrerà a quello umbro e assicurerà praticamente tutte le fasi fino alla marchiatura dei prosciutti, e poi torneranno presso i loro legittimi proprietari. Siamo all'estero. La prima confessione di Hillary Clinton dopo la sconfitta elettorale. Now I will admit, coming here tonight wasn't the easiest thing for me. Devo ammettere, venire qui stasera non è stata la cosa più facile per me. Ci sono stati alcuni momenti la scorsa settimana in cui tutto quello che volevo fare era solo leggere un buon libro, stare con i cani e non uscire più di casa. Non nasconde la sua delusione Hillary Clinton nel suo primo discorso pubblico dopo la sconfitta alle presidenziali. Abito blu, il colore dei democratici, il volto tirato, Hillary Clinton ha parlato a Washington in occasione di un gala benefico. So che molti di voi sono profondamente delusi dai risultati delle elezioni, ha aggiunto. Lo sono anch'io, più di quanto potrò mai esprimere, ma non bisogna perdersi d'animo. È questo il messaggio di Hillary Clinton. Le divisioni messe a nudo da questa elezione sono profonde, ma continuate a credere nel nostro paese, battetevi per i nostri valori e non arrendetevi mai. La Clinton, lo ricordiamo, ha perso nonostante abbia ottenuto oltre 1 milione di preferenze in più rispetto a Donald Trump. Decisivi per la sconfitta sono stati però i grandi elettori. Trump se ne è assicurati 290 contro i 232 dell'ex segretario di Stato. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la richiesta arrivata dal sindaco di Milano Beppe Sala per quanto riguarda via Padova, si moltiplicano dalle città e dalle varie città le richieste, appunto, di far intervenire l'esercito per il controllo del territorio, soprattutto nelle periferie. Questa mattina il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi è intervenuto a 24 Mattino, ospite di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Sentiamo cosa ha detto. C'è un dato certo, ed è quello che noi abbiamo 1800 uomini impiegati a Roma sul Giubileo, evidentemente sì. Il Giubileo sta per terminare e quindi una parte di questi uomini possono essere dislocati in altre zone. Nella realtà già 500 uomini sono stati portati in funzione antisciacallaggio nelle zone del sisma. Orientativamente possiamo parlare di circa 100 unità, fermo restando che, come lei sa, i numeri verranno determinati non dalla difesa ma evidentemente dagli organi preposti, cioè prefetto e ministro dell'interno. Potrebbero essere però un centinaio di unità. Un centinaio che si aggiungerebbero ai 650 sì. Che già sono dislocati su Milano. E di criminalità torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno nel nostro giro per l'Italia, a partire dalla vicenda della quale vi riferivamo nei titoli, ossia questa fuga rocambolesca tra Friuli e Veneto che si è conclusa con l'arresto di tre persone sospettate di essere dei ladri seriali, che però sono stati rilasciati immediatamente. Quindi evidentemente non solo un problema di esercito sulle strade. Vi do un aggiornamento dell'ultima ora che arriva dalla Libia e arriva da Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere ha soccorso e recuperato 27 migranti in un nuovo naufragio. Erano su una barca che originariamente aveva a bordo 130 persone. Le vittime di questo nuovo naufragio sarebbero dunque 100. In Campania e Sicilia la speranza di vita alla nascita è di 4 anni in meno rispetto a quella dei cittadini di Trento o delle Marche. La denuncia arriva dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, che presentando i dati dell'Osservatorio Salute, da lui stesso diretto, ha puntato il dito contro quelli che ha definito i frutti amari del federalismo sanitario, spinto e non solidale di questi anni. Senza un intervento riequilibratore, dice, per 34 milioni di cittadini le condizioni di salute sono destinate a peggiorare ulteriormente. Sentiamolo, intervistato da Katia Caramelli. L'aspettativa di vita, che è cresciuta dal secondo dopoguerra in poi, a un certo punto ha smesso di crescere, anzi è diminuita. E questo tendenzialmente può far portare da una parte le regioni del nord, diciamo, a avere delle performance simili a quelle delle regioni del nord Europa, invece le regioni del sud ad avere delle performance simili a quelle dell'est Europa. Diciamo che sicuramente Campania, Calabria, Sicilia, Puglia sono quelle che hanno fatto registrare diciamo le performance tra virgolette peggiori dal punto di vista dell'aumento della mortalità evitabile, dell'arresto, dell'aumento addirittura della diminuzione dell'aspettativa di vita, mentre invece regioni come Marche e il Trentino hanno fatto, diciamo, registrare le performance esattamente opposte. Quali sono le cause di questa situazione? I determinanti di rischio di malattia si distribuiscono in maniera uguale in tutto il territorio nazionale, sostanzialmente perché gli italiani purtroppo mangiano troppo e male, non fanno attività fisica, bevono troppo e fumano. Questi sono i quattro fattori che determinano l'86% delle malattie e delle morti degli italiani. Però le regioni rispondono in maniera differente, per esempio avviando programmi di screening, di prevenzione, dando vaccinazioni attive a tutti, organizzando meglio la propria rete dei servizi, facendo partorire in maniera sicura. Dove questo non succede o succede meno, allora l'aspettativa di vita o si ferma o addirittura decresce. C'è anche un problema di carenze, comunque, di risorse? Le carenze, diciamo, ci sono sicuramente, ma anche perché molto spesso le risorse sono state, diciamo, utilizzate male. Un'altra vicenda, ne abbiamo trattato tra l'altro ieri, anche qua in Effetto Giorno, come ricorderete, il tema del cosiddetto secondary ticketing, sostituzione di persone truffa informatica, sono questi reati ipotizzati dalla Procura di Milano che si occupa del fenomeno. Tra i primi nomi degli indagati quelli di Roberto De Luca, amministratore delegato di Live Nation Italia, e Corrado Rizzotto, ex numero uno di Vivo Concerti. E parliamo naturalmente delle vicende dei biglietti dei concerti, appunto. Tutto parte da un servizio delle Iene, ma soprattutto dalle denunce che da mesi faceva anche dai microfoni di Radio 24 il promoter indipendente Claudio Trotta. Marta Cagnola lo ha sentito. È abbastanza complesso riuscire a descrivere le mie sensazioni, perché da una parte sono molto, come dire, contento che i fatti, le modalità, i comportamenti vengano fuori. La speranza, la parte positiva, è che forse si capisca che non è solo un problema di alcune persone che si sono comportate male, ma è un problema di un sistema. Ho una sensazione positiva del fatto di non sentirmi più solo, mi sono sentito solo per tanto tempo. Ho chiesto pubblicamente ai cantanti italiani, ai cantanti internazionali, alle associazioni di categoria a cui appartenevo, perché ieri mi sono dimesso, alle istituzioni, di far sentire la propria voce. Nessuno si è fatto sentire, nessuno è stato al mio fianco per mesi, quindi sono sensazioni contrastanti. Claudio, hai menzionato le tue dimissioni da Assomusica. Perché, per quale ragione questa decisione? Io a gennaio del 2016 ho chiesto che si intervenisse contro questo sistema del secondary ticketing. In questa riunione c'era pure il presidente di Assomusica. Alcuni partecipanti hanno detto che si trattava di una sorta di dynamic pricing comparabile a quello che fanno, che non so, le compagnie d'aereo piuttosto che gli alberghi o quant'altro. Altri sono stati completamente zitti e io ho finito quella linea dicendo: scusate, io da quasi 40 anni ho deciso di fare l'imprenditore, poi lo posso fare bene, lo posso fare male, sono bravo, non sono bravo, questo è un altro discorso, non lo speculatore. Ho chiesto di prendere una posizione, posizione che la società al tempo non ha preso. A quel punto ho rotto gli argini, ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica il 4 di aprile del 2016. Ho chiesto la notte stessa del servizio televisivo delle Iene che l'associazione prendesse il giorno dopo immediatamente una posizione chiara, definita. Questa condanna non c'è stata. Ho scritto una lettera a tutti gli associati dicendo se non ci sarà una chiara denuncia morale di tutto questo, io non starò un minuto in più all'interno di questa associazione. Non c'è stata questa denuncia e non sono stato un minuto in più all'interno dell'associazione. Punto, basta. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Come si diceva, inizieremo andando sul confine tra il Friuli e il Veneto e poi andremo in Puglia, dove a quanto pare c'è una banda organizzata che parte da Cerignola e colpisce in tutta Italia e che ha già messo a segno 15 colpi a furgoni portavalori, ha provato ieri un assalto ad un treno. Ne parleremo col questore, a tra poco. OneExpress.it, Pallet Network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'astensione dell'Italia nel voto sul bilancio europeo, ci siamo occupati di referendum, ci siamo occupati del primo discorso pubblico di Hillary Clinton dopo la sconfitta, abbiamo parlato della speranza di vita alla nascita, molto più bassa in Campania che in altre regioni, molto più bassa in molte regioni del sud rispetto alle regioni del centro e del nord. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo dal Veneto e da Meduna di Livenza, siamo in provincia di Treviso. Marica Fantuzzi è il sindaco, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, voglio subito chiarire una cosa con un ascoltatore che ha scritto quando abbiamo annunciato che avremmo trattato questo argomento. Dice, non ho capito, Spezia, essere sospettati significa essere colpevoli, la finiamo con questa mentalità forcaiola. Guardi, le dico, vada a scorrere anche solamente i post che ho scritto sui social, oppure si ricordi di tutte le volte che qua siamo stati accusati di essere eccessivamente garantisti. E però la vicenda è questa. Avviene, c'è un'auto rubata, lasciamo stare la marca, un Audi A6 comunque, che viene rubata, parte dal Pordenonese, va verso il Veneto, ci sono 10 pattuglie schierate all'inseguimento. Tra l'altro si sospetta che queste tre persone a bordo si siano rese protagoniste di alcuni furti ed è quello il sospetto, però c'è un inseguimento e ci sono delle persone che scappano. Alla fine, dopo questo inseguimento rocambolesco, arrivano appunto a Meduna di Livenza, dove scendono dall'auto, tra l'altro cercano di fuggire attraverso il fiume con questo freddo e così via, quindi insomma qualche elemento di sospetto probabilmente c'è. E cosa succede? Che vengono rilasciati immediatamente e denunciati a piede libero. Ora, qua non si tratta di essere forcaioli oppure no, si tratta che del fatto che in qualsiasi paese del mondo almeno un paio di notti in galera per una roba di questo genere te le fai, quantomeno in guardina, non è che sto dicendo che vanno condannati subito. Allora sindaco, innanzitutto ci racconti un po' la cronaca, perché lei probabilmente era là in zona, insomma il paese sia enorme, no? Ci racconti un po'. Un fazzolettino di 15 km quadrati. Allora, praticamente tengono in scatto i carabinieri per ore tra la provincia di Pordenone e la provincia di Treviso. Queste tre persone rubano in auto rubata, la 6 famosa rubata, li perdono, li rintercettano, scappano, li inseguono, li riprendono, li braccano a Meduna, li bloccano sul ponte, loro si lanciano con 3 gradi fuori dal ponte, perdonatemi che un po' di sospetto possa esserci su queste tre persone, no? Un enorme dispendio di forze, energie, soldi e uomini che con giubbini antiproiettili, c'erano almeno 30 tra carabinieri, vigili del fuoco, giubbini antiproiettili e torcia, si lanciano nell'argine, seguendo l'asta del fiume, alla ricerca di questi tre delinquenti, perché non stiamo parlando di missionari, sono delinquenti, già per il fatto che scappano, si lanciano dal ponte, incredibile, l'auto era rubata e comunque si sospetta che, è vero perché non sono stati colti in flagranza di reato, che abbiano fatto diversi furti nei giorni precedenti in case perché, del Pordenone. Mi scusi, perché questa stessa auto è stata ricollegata, come dire, era presente in luoghi dove ci sono stati dei furti, se ho capito sì, bene. Assolutamente sì. Indagini in corso, poi per carità. Hanno trovato attrezzatura da scasso nel bagaglio dell'auto, insomma nella mia auto non trovi determinate cose, comunque non importa. Uomini che mettono a repentaglio la propria vita per salvaguardare la nostra, ok? Portano a casa il risultato, obiettivo raggiunto, li prendono tutti e tre, i cittadini battono le mani e cosa succede? La procura li rilascia perché troppo pochi gli elementi. Allora, io comprendo che la magistratura debba agire nel rispetto della legge, ovvio. Ma credo altresì che un margine di discrezionalità ci debba assolutamente essere, ok? Denuncia a piede libero per ricettazione riconducibile alla macchina, secondo me è una sentenza vergognosa, deprimente, umiliante e mortificante, perché mi chiedo come fa un cittadino oggi a credere in istituzioni e giustizia. Sindaco, in sostanza questi sono ancora in giro adesso. Assolutamente, certo. E di sicuro non sono andati in ufficio di collocamento a Oderzo piuttosto che a Treviso per cercare lavoro, perché hanno ripreso il lavoro che facevano abitualmente, no? Perché non si tratta veramente di forconi, ma adesso non mettiamoci il prosciutto davanti agli occhi, perché qui è mortificante e vergognosa questa denuncia. E chi sostiene il contrario è altrettanto vergognoso per quanto mi riguarda. Sono abbastanza arrabbiata. L'abbiamo intuito, sindaco. Senta una cosa, dal vostro punto di vista come vanno le cose? Già che ci siamo, glielo chiedo, visto che stiamo parlando molto di criminalità in questi giorni, di esercito nelle città, chiaro che parliamo di città grandi in questo caso, di presidio delle periferie, però mi interessa anche sapere la sua opinione, come vanno le cose dalle vostre parti. Allora, per quanto riguarda il mio territorio, il mio comune, ma comunque il territorio, abitazioni che hanno ricevuto la visita di questi malviventi in generale ce ne sono diverse e finché ce ne saranno, anche solo una, il problema esiste. Il fatto grave per quanto mi riguarda da rappresentante di una comunità, ho potuto vedere purtroppo che negli ultimi anni la percezione dell'insicurezza è altissima, ma la cosa più grave è che siamo passati dalla paura personale della criminalità a una paura che è sociale della criminalità, ok? E questo è a causa di un sistema legislativo e giudiziario che è mortificante e che invece di difendere il cittadino fa sì che il cittadino venga preso in giro quotidianamente. Cittadino e forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine, poveri, fanno il loro lavoro con le risorse e i mezzi che hanno. E se il loro sacrificio porta a questi risultati, io personalmente porterei il distintivo e la pistola e andrei a cercare un altro lavoro, insomma. La ringrazio, grazie Marica Fantuz, sindaco di Meduna di Livenza, provincia di Treviso, per essere stata con noi. Ci spostiamo in Puglia adesso, chiedo scusa per averlo fatto attendere un po', ma probabilmente sono anche argomenti che lo interessavano. Saluto Pier Nicola Silvis, che è il questore di Foggia. Buongiorno questore, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, per parlare di un'altra vicenda sempre connessa ai temi della criminalità, è una vicenda che abbiamo trovato, viene raccontata oggi bene dal quotidiano La Repubblica, ed è una vicenda che riguarda nello specifico Cerignola, e siamo in provincia di Foggia, ma che in realtà riguarda tutta Italia, perché c'è una banda che sta mettendo a segno una serie di colpi, particolarmente in Puglia naturalmente, molto ben organizzati, in stile quasi militare, viene da dire, comprende una serie di cose, l'utilizzo di Kalashnikov, di bazooka, e ieri hanno addirittura tentato l'assalto ad un treno, volevano rubare dei pannelli solari, hanno sbagliato vagone e quindi il colpo non è riuscito, però in realtà, come dire, per quanto riguarda i portavalori e altri casi ci sono stati dei colpi riusciti. Che cosa ci può dire su questa vicenda, questore? Ma guardi, la criminalità della provincia di Foggia si articola in tre grosse sottocategorie: la criminalità organizzata mafiosa di Foggia e San Severo con bombe, omicidi ed estorsioni, la criminalità del Gargano con omicidi e estorsioni, anche qui sempre finalità 416 bis, e la criminalità organizzata di Cerignola che invece è a sé stante e ha una finalità precipua, cioè quella di commettere rapine eclatanti. Cirignola è una città, una cittadina di 59.000 abitanti, molto operosa, dato i natali d'altronde di Vittorio e ad altre personalità illustri, ma nella malavita cirignolana allinea questa tradizione da anni, da molti anni, di essere tra i più professionali rapinatori del paese, e questa è una cosa che purtroppo esportano non soltanto nell'ambito di tutta la provincia di Foggia, ma anche in tutta Italia. Praticamente una centrale delle rapine, come dire, delle rapine più organizzate. Sono professionisti, fortemente professionisti, sono più bande, non c'è una sola banda. Tant'è vero, perché noi spesso, come lei può immaginare, come gli ascoltatori possono immaginare, noi li colpiamo con forza, con molta forza. Abbiamo arrestati a gennaio 14 rapinatori che avevano commesso una grossissima tentata di rapina a Foggia nel giugno del 2014, addirittura avevano cercato con un escavatore di distruggere la sede dell'agenzia di trasporto valori per portare via il cavò. Soltanto con 19 mezzi rubati, incendiati, hanno messo a suo quadro mezza città di Foggia. Poi ci fu un conflitto a fuoco con la forza dell'ordine e il colpo andò male, per fortuna, se no avrebbe fruttato milioni di euro, e sono finiti in galera a gennaio di quest'anno. Questi non sono stati liberati subito, però, questore. No, questi non sono stati liberati. No, è stata un'indagine durata un anno e mezzo. Noi nella nostra tecnica investigativa non lasciamo mai insoluti o irrisolti i casi più gravi, cerchiamo sempre di portare a termine, e questo ci abbiamo messo un anno e mezzo, però alla fine sono stati incastrati tutti. Per alcuni che sono stati incastrati ce ne sono altri in attività. Perché voi ovviamente su questo fate anche dei sequestri, tra l'altro leggo dalla Repubblica che addirittura in alcuni assalti hanno fatto alzare dei droni per controllare i movimenti delle forze di polizia. Guardi, questa cosa dei droni l'ho letta anche io, ma sinceramente non posso escludere che li abbiano, perché i droni li trovi anche negli autogrill, quindi certo, non è una cosa... Però che possa dire con certezza, io, a me non risulta che ci siano state queste attività con elicotteri, con droni, sì, eccetera. Ci dà questore un'idea sulla base dei sequestri che fate, perché immagino appunto che ci siano perquisizioni e sequestri del materiale, materiale che trovate? Guardi, io non dimenticherò facilmente il sequestro che facemmo nei primi giorni di aprile del 2014, quando sottoponemmo Cirignola a un'operazione cosiddetta alto impatto, cioè prendemmo per un mese di mira la città e con perquisizioni, ispezioni, perché non è una cosa di adesso. Cirignola purtroppo ha questa fama dagli anni 50, e abbiamo trovato un vero supermarket di armi, una cosa veramente impressionante, dove c'era una persona che nascondeva decine di fucili mitragliatori tra Kalashnikov usati a israeliani, aveva addirittura un mitragliatore da terra, da combattimento, da trincea, e 18.000 proiettili, aveva poi giubbotto antiproiettili e bombe, e addirittura il book dove sostanzialmente con la fotografia dell'arma a fianco c'era il prezzo, perché lui li vendeva a chi ne aveva bisogno, cioè veniva il rapinatore, aveva bisogno di un Kalashnikov, glielo vendeva, il mafioso fuggiano per commettere un omicidio gli vendeva la cosa, cioè, quindi voglio dire, perché oltre alle rapine c'è anche l'indotto, mi scusi la battuta, insomma, ecco, cioè, quindi anche il supermarket, appunto, dove si possono comprare. Questo faceva il supermarket, li teneva in gestione con il book, con i prezzi, cioè e le assicuro che quella volta che ho visto quel deposito, quella stanza del commissario di Cirignola riempita di armi, sembrava di vedere un deposito di Gladio, lei sicuramente ricorderà, sì, con te Gladio, sì. Sembrava di vedere una cosa di questo genere, un sequestro di armi tra i più grossi mai verificati nel paese, passato naturalmente con poca notizia, perché quasi sotto silenzio. Cioè. Sì, perché come è noto purtroppo la provincia di Foggia non è una provincia interessante, quindi quando succedono le stesse cose che succedono a Napoli o a Palermo o a Milano, lì le considerano a quattro soldi, per cui invece se la gente sapesse queste cose forse si potrebbe cominciare a ricreare socialmente un tessuto utile per riportare Cirignola e tutta la provincia più su. Allora, io la ringrazio, questore. Come ha sentito, invece noi ne parliamo grazie al questore di Foggia, Pier Nicola Silvis, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, c'è la borsa come sempre e poi ricominciamo il nostro giro per l'Italia e tra le altre cose ci occuperemo di un pestaggio avvenuto in un centro immigrati. Siamo, se non erro, in provincia di Caserta, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. L'Italia si astiene nel voto sul bilancio europeo, è la prima volta che avviene, Renzi dice siamo pronti al veto ma non per egoismo. E il Premier interviene anche sul referendum, se vince il no nessun governo tecnico di scopo, non sono abbarbicato alla poltrona. Si attendono polemiche per le dichiarazioni del presidente campano Vincenzo De Luca che sono state diffuse poco fa e che riguardano quello che disse la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi, che lo aveva inserito nella lista dei candidati impresentabili. Quello che fece la Bindi è stata una cosa infame da ucciderla. Primo discorso di Hillary: dopo la sconfitta ho pensato di non uscire più di casa, il voto ha creato forti divisioni nel paese più grande del mondo. In Campania la speranza di vita alla nascita è inferiore di 4 anni rispetto a quella di Trentino e Marche, emerge dall'osservatorio Salute la Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia prosegue andando in provincia di Caserta, in un luogo, un paese che si chiama Vairano Patenora, per parlare di quello che è avvenuto in un centro per immigrati, nel quale quattro giovani del paese sono entrati gridando bastardi negri, mi si scusi, bastardi negri di merda, dovete andarvene via, e hanno iniziato a picchiare con delle spranghe. Abbiamo in linea il sindaco Bartolomeo Cantelmo. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Che ha l'onore, tra l'altro, di essere il sindaco del paese nel quale si incontrarono Garibaldi e Vittorio Emanuele, il famoso incontro di Teano, in realtà è venuto a cavallo fra Teano e il suo paese. Allora, che cosa è successo? Ci dice? Sì, innanzitutto rinnovare la mia solidarietà, mia, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità, ai 18 giovani stranieri ospiti della nostra comunità già da alcuni mesi, con un programma di integrazione che stava raggiungendo obiettivi molto molto importanti. Purtroppo c'è stato questo episodio di quattro, posso dirli, chiamarli balordi, quattro giovani balordi che, presi non so da quale momento di eccitazione, hanno fatto questo gesto inconsulto che tutti condanniamo assolutamente. Però io penso che non rifletta questo gesto, il pensiero assolutamente non riflette il pensiero della comunità di Vairano, che con questi giovani è un rapporto ottimo, quindi sì, è stato un episodio leggo dalle cronache locali, in particolare da quelle del Corriere del Mezzogiorno, che su Facebook un po' di solidarietà questi l'hanno ricevuta, no? Complimenti a questi che hanno le palle per difendersi da questa invasione, cose di questo genere. Sì, però sappiamo che c'erano le frange, diciamo, estremiste, almeno a mio giudizio, che vanno isolate, perché questo non è il pensiero della maggioranza, della minoranza, di un'estrema minoranza, e quindi un problema nazionale, sappiamo questo, dei migranti, già momenti di esasperazione da parte di alcune forze anche politiche, ma io sono convinto che la comunità di Vairano, nella stragrande maggioranza, è solidale con questi ospiti, che, ripeto, ce ne stanno almeno 50, quasi 60 in Vairano, e finora non sono stati assolutamente problemi. È un modo di pensare che io personalmente, tutta l'amministrazione mia, condanna e isola, non questo pensiero lungi dal nostro. Cantelmo, fatto sta che il prefetto ha deciso di trasferirli, i 18 richiedenti asilo che si trovavano in quella struttura, in un altro comune? Sì, oggi stanno avvenendo questo trasferimento. Io sono stato presente fino a mezzanotte vicino a questi ragazzi a cercare di convincerli, perché la disposizione del prefetto va sempre rispettata. Proprio questo conferma che i ragazzi stanno così bene a Vairano, che per cui non volebbero andarsene in un altro centro. La decisione del prefetto, in effetti, forse è stata molto prudenziale per evitare o per acquisire anzitutto informazioni che possono non essere state raccolte o sfuggire a una decisione diversa, prudenzialmente, perché poi so che l'idea di pure tornare a Vairano dopo 10-15 giorni, almeno così mi ha detto il comitato in prefettura, era una decisione prudenziale, diciamo. La ringrazio, grazie Bartolomeo Cantelmo, sindaco di Vairano Patenora. Prima di chiudere, di dare la linea al traffico e poi a Mario Platero, un paio di piccole precisazioni. Ci ha chiesto il questore di Foggia, che abbiamo avuto in linea poco fa, di precisare che sulla vicenda della criminalità di Cerignola che non c'è alcun legame, quantomeno nessun legame accertato al momento, con la Sacra Corona Unita. Una precisazione che ci teneva a fare e ce l'ha detto insomma subito dopo che abbiamo attaccato con lui, ed era importante dirlo. Un'altra precisazione ad un ascoltatore che scrive: Spezia, quando lei afferma che gli Stati Uniti sono il paese più grande del mondo, a quali grandezze si riferisce? A nessuna, perché sono le parole di Hillary Clinton, non sono le parole mie. Ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, proprio a proposito di Stati Uniti, e ci risentiamo alla fine per i saluti.